1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora, cari ascoltatori, eccoci qui, sono le 7:18 minuti, siamo pronti a leggere i giornali con voi nel giorno in cui si vota in Gran Bretagna per l'uscita dalla Unione Europea. Vedremo come vanno ovviamente questa votazione, ed è uno dei temi affrontati dai quotidiani che andiamo a sfogliare. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a giovedì 23 giugno, come titolo al Sole 24 ore in prima pagina, Brexit, il giorno più lungo dell'Europa, Juncker dice chi è fuori sta fuori, ed è anche il titolo del Corriere della Sera, l'Europa se Londra esce non si tratta. Anche per Repubblica è il giorno più lungo d'Europa. Il Fatto Quotidiano invece sulla politica italiana, referendum, Renzi nel panico, se lo chiede il PD non si ritira più. Mentre la Brexit torna sul Messaggero, il voto che cambia l'Unione Europea, anche il giorno Brexit, Unione Europea appesa un filo, la Stampa, Europa è il giorno più lungo. Mentre per il Manifesto è essere o non essere. E avvenire dentro o fuori. Ovviamente c'è anche un po' di drammatizzazione, l'abbiamo raccontato, lo racconteremo, non è che se dovesse vincere la Brexit domani la Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea, però certamente il momento è molto importante. Libero torna sulla politica italiana, nel PD volano schiaffoni, la vendetta dei rottami, e ci sono le foto di D'Alema, Prodi e Bersani. Per il giornale invece, IPM già addosso alla Raggi, nel giorno della proclamazione ha aperto un fascicolo sulle consulenze ASL, il titolo di prima pagina. Anche per l'Unità invece l'appello in qualche modo ai cittadini britannici, keep calm and remain. Allora, quindi titolo in inglese, oggi il voto sulla Brexit. Allora, però voglio partire da cosa? Da Alex Schwarzer. Ieri ci siamo lasciati con questo scoop della Gazzetta dello Sport che è stato confermato, ma nella conferenza stampa di ieri a Bolzano, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, questa volta Schwarzer non piange, questa volta non si commuove, questa volta non chiede scusa, anzi dice questa volta non devo chiedere scusa di nulla, questa volta sono pulito ed è dunque giallo, perché le analisi fatte a Colonia sulle urine di Schwarzer prelevate il giorno di Capodanno, sebbene ricontrollate e in un primo tempo erano pulite, ricontrollate poi più avanti hanno dato una positività all'anabolizzanti, e allora qui c'è il giallo. Comunque racconta la vicenda, non è una vicenda solo sportiva, tant'è vero che racconta tutto ciò il Corriere, per esempio a pagina 20. Niente lacrime, niente scuse, niente vergogna, niente mani a coprirsi la faccia, non stavolta. Altro linguaggio del corpo rispetto a 4 anni fa. Quel qualcuno non vuole che vada a Rio, cioè alle Olimpiadi. È un incubo, ma state certi che andremo fino in fondo. Non ho sbagliato nulla, non ho nulla da farmi perdonare, sono pulito. Così dice lui, così il suo allenatore Sandro Donati. E allora ecco che il Corriere racconta di queste tecniche raffinatissime sulla sua pipì. Due tecnici specializzati, 48 ore di lavoro, procedure costose, la spettrometria di massa per rapporto isotopico. Questo hanno fatto lo scorso 13 maggio per dichiarare positive le urine di Alex Schwarzer, i biologi del laboratorio WADA di Colonia. WADA è l'agenzia antidoping mondiale. Hanno usato lo stesso metodo che smaschera chi adultera il whisky per vendere al prezzo dei pregiati single malt, i banali, blended. Insomma, pare che con tecniche raffinatissime abbiano trovato gli anabolizzanti. Schwarzer dice no, non è vero, nessuno evoca la parola complotto, ma certo qualcosa di misterioso allora ci deve essere. Tra l'altro è stato proprio il giorno ieri in cui gli atleti olimpici erano al Quirinale, erano al Quirinale per ricevere, come dire, anche l'incoraggiamento, se volete, dal capo dello Stato Mattarella. E cosa è successo? È successa una gaffe abbastanza clamorosa da parte degli ispettori antidoping, in questo caso tedeschi, che volevano fare un controllo a sorpresa su Elisa Rigaudo, marciatrice. Sapete che gli atleti devono comunicare sempre dove sono per dare la possibilità appunto agli ispettori del doping mondiale di fare controlli a sorpresa, devono comunicare gli spostamenti. E Elisa Rigaudo aveva comunicato: sarò al Quirinale dalle ore tot alle ore tot per la cerimonia, eccetera. E questi ispettori si sono presentati al Quirinale bussando con le provette, con le valigette, dicendo: dobbiamo fare un controllo a sorpresa. Ovviamente imbarazzo, stupore, ma come, al Quirinale non si può entrare mica così, cioè bussando come in un condominio qualsiasi, senza essere annunciati da una, come dire, da un accredito, come si suol dire. E allora eccole qua la gaffe dell'ispettore della IAF al Quirinale per testare la Rigaudo, che viene abbinata ovviamente alla vicenda di Schwarzer. Anche il Corriere dedica una pagina: ispettori al Quirinale, il test alla Rigaudo diventa una gaffe. E anche la maca di Michele Serra è dedicata su Repubblica proprio a questo: l'episodio dell'ispettore della Federazione Internazionale di Atletica che pretende di entrare al Quirinale per prelevare la pipì di un atleta azzurra mentre ha colloquio con Mattarella è semplicemente incredibile, scrive Serra. Sembra un racconto umoristico, una novella di Gogol sulla burocrazia. Ma è davvero accaduto nello sbigottimento del personale del Quirinale che ha dovuto spiegare a quel signore che un'udienza del capo dello Stato non è il momento più adatto per raccogliere le urine. Quel signore fa quasi tenerezza, è il simbolo vivente della burocrazia nel suo aspetto più assurdo e funesto, quell'ottuso perseguire i propri obiettivi senza mai calarsi nella realtà umana in cui si agisce. Moduli da riempire, iter da completare, come un circolo chiuso che ha inizio e fine in una stanza d'ufficio e solo in quella stanza. Il fuori è solo un magma inerte da controllare e schedare. L'impopolarità della burocrazia sta tutta in questa sua implacabile alterità rispetto alla materia umana. In questo senso, la riforma delle riforme, la più difficile, la più impossibile, è la riforma della burocrazia in tutto il mondo, dalla Germania al Quirinale. Così la maca di Michele Serra. Vabbè, lasciamo le vicende di doping. Vi segnalo che c'è stata appunto la prima prova della maturità, lo sapete. C'è stata anche una prova sul PIL, da una frase, tra l'altro, l'articolo da un articolo del Sole che riguarda una citazione storica di Robert Kennedy, che disse anni fa contro il PIL: una misura senz'altro grossolana per valutare il benessere, perché dentro il PIL ci sono le ambulanze per sgombrare le strade dalle carneficine, le porte blindate per le case, le prigioni per coloro che cercano di forzarle, la produzione di testate nucleari. Era lo sfogo di Kennedy, Robert Kennedy, il fratello di John Fitzgerald. Era il 1968, 80 giorni prima di essere assassinato come il fratello, tra l'altro. Robert concluse così il suo amaro discorso: il PIL misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. E Fabrizio Galimberti, in prima pagina del Sole 24 Ore, scrive questo commento: ma se io fossi il PIL mi sarei offeso per questa prova di maturità. Perché, scrive Galimberti, fin qui il capo d'accusa al PIL, ma ho il sospetto che gli studenti siano invitati a fare l'avvocato difensore per dichiararsi d'accordo con la intemerata di Kennedy. 5 colonne di metà di foglio il protocollo, come da istruzioni ministeriali, sono anche troppe. Allora, come si può venire in soccorso del PIL bistrattato? Non c'è nulla di sbagliato in ciò che dice Kennedy, il problema sta in quello che non dice. Il PIL non ha morale, è una misura. Una misura di beni e servizi finali prodotti nel paese. Se poi il paese decide di produrre più missili e meno ospedali, la colpa non è del PIL. La decisione è presa in una democrazia con l'abituale processo elezioni, Parlamento, Governo. Quando si dice quindi che il PIL non misura tutte le dimensioni del benessere, si sfonda una porta aperta. Già da molti anni istituti di statistica e organismi internazionali sfornano misure alternative come l'indice di sviluppo umano o le misure del benessere. Ma il PIL continua a essere una misura fondamentale per due ragioni. In un mondo dove continuano a esistere grandi sacche di povertà e fame, il benessere materiale, fogne, elettricità, medicine, lavatrice, case, auto, continua a essere la meta più ambita. Primum vivere, deinde filosofari. Secondo, come si afferma giustamente nell'altra traccia del Ministero sul PIL, c'è molta correlazione tra PIL e altre dimensioni del benessere. Più un paese è materialmente ricco, più si può permettere di spendere per salute, istruzione, combattere l'inquinamento. Insomma, l'accorato appello di Kennedy non è una denigrazione del PIL, quanto un richiamo a quei valori che per definizione non fanno parte del PIL. Insomma, vabbè, questo sarebbe stato un bel tema, credo, per un maturando, quello di Fabrizio Galimberti, anzi un ottimo tema. Lo trovate in prima pagina del Sole 24 Ore, cari maturandi, ma ormai il tempo è scaduto. per consegnarlo. Va bene, io credo che dobbiamo saltare a questo punto all'articolo che mi fa pensare della giornata. È una storia dolorosa che ho trovato anche qui di burocrazia, come un po' di burocrazia raccontava Michele Serra sulla Maca, la vicenda del galoppino antidoping che ha bussato al Quirinale. Questa è però una vicenda di burocrazia che ha dell'incredibile, raccontata da Roberto Canali a pagina 23 del Giorno. Anziano muore in povertà, ma per lui non c'è una bara. Succede a Como, in Lombardia. E non c'è solo lo scandalo delle paratie a rovinare l'immagine di Como, scrive Il Giorno. Questa volta a provocare indignazione la storia vera di un anziano comasco morto in condizioni di povertà al quale il comune ha negato una bara. È stato tutto reso noto da un consigliere, Alessandro Rapinese. Muore questa persona molto anziana all'hospice e dice: alle 9 contatto i servizi sociali. Alle 11 mi comunicano che hanno trasmesso la valutazione positiva all'ufficio cimiteri del comune, ma gli sportelli chiudono alle 12 di venerdì e all'hospice non hanno una cella frigorifera. Il problema è grave. Sabato, allora, alle 5 del mattino, una dottoressa dell'hospice cerca di contattare il comune senza successo. Arriva lunedì mattina e io, consigliere, mi rimetto in contatto con le assistenti sociali che mi danno il contatto di un fantomatico ufficio morti. Ma la linea cade in continuazione. Il pomeriggio del lunedì corriamo all'hospice nella speranza che nel frattempo sia accaduto qualcosa, ma la dottoressa dice: dal comune hanno chiamato per dire che non hanno la bara. Era troppo povero. Come finisce questa storia? Finisce che un benefattore, una persona generosa, copre da privato di tasca sua le spese, chiama le pompe funebri e finalmente il mercoledì, 5 giorni dopo, si riesce a fare il funerale. Era troppo povero questo anziano, non doveva morire. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Hello, this is George Clooney and this is my Sciogli Lingua. How much wood can a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Thank you and goodbye. Goodbye, Mr. Clooney. L'abbiamo rispolverato, lo Sciogli Lingua di George Clooney, che peraltro qualcuno ci ha detto non è completo, in realtà sarebbe ancora più lungo, ma va bene così. Ci accontentiamo. Al 349-238-6666 mandate i vostri Sciogli Lingua preferiti. Oh, che bella gioia leggere la politica italiana del dibattito del dopo voto. Sì, molto divertente. Si può capire dal tono della voce che è molto divertente leggere sui giornali queste pagine di dibattiti tra la minoranza del PD che rialza la testa. Ieri, dopo D'Alema, intervistato un'intera pagina ad Aldo Cazzullo, oggi tocca a Pier Ferdinando Casini, che non è del Partito Democratico, ma insomma anche lui rispunta un'intera pagina di intervista sul Corriere della Sera. Renzi invece ha pratica ora la dote dell'umiltà, ha imboccato la strada dell'umiltà. Questo almeno si potrebbe fare il nuovo conto dei giorni decisivi, no? È il giorno 3 di Renzi sul sentiero dell'umiltà. Ha pubblicato la E-News, la sua analisi su Facebook, credo. Parliamo agli italiani e non di poltrone, apriamoci ai territori e niente caminetti. Anche sul referendum ne parla in maniera un po' più sfumata rispetto a prima. Insomma, ci sarà la direzione del PD in cui pare parlerà molto meno rispetto al solito. Insomma, è un Renzi umile, un Renzi nuovo, un Renzi con la linea B. Ora serve più sinistra, accusa la minoranza del PD, scrive Repubblica, e Renzi dice stop alle correnti, parliamo agli italiani. A proposito di referendum, in questa noia mortale, l'avete capito, di questo dibattito politico, forse la notizia più importante ce l'ha la Stampa, come spesso accade. Fabio Martini, pagina 11, dice che Renzi è pronto, mentre prima giurava il 2 ottobre deve essere la data del referendum, ora si è reso conto che forse c'è bisogno di un po' più di tempo per una campagna elettorale un po' più ampia, perché deve recuperare, perché c'è agosto e gli italiani in agosto a tutto pensano. Il referendum lo mettono, credo, al millesimo pensiero, a settembre lo metteranno al 150esimo, forse a ottobre, quando si voterà, lo metteranno nei primi 10 pensieri della giornata. E allora l'idea di Renzi però è di quella di far slittare il referendum, non più il 2 ottobre, ma, racconta Fabio Martini, pagina 11 della Stampa, forse pensa più al 23 o 30 ottobre. Idea Renzi: far slittare il referendum e avere più tempo per rilanciare il sì. Questo è il titolo. Anche Claudio De Vincenti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è molto affranto, deluso dall'intervista di D'Alema, e quindi replica sul Corriere della Sera, intervistato da Enrico Marro: non sono d'accordo con lui su come imposta il problema, sbaglia ad attaccare gli 80 euro. Ho pensato che sia io, sia lui, D'Alema, veniamo da una storia politica che ci ha lasciato molte lezioni. La più importante: non dovremmo mai dimenticare che l'interesse generale del paese viene prima di interessi di parte o convinzioni personali. Insomma, questi dibattiti politici alimentati da interviste lunghe che interessano sì a loro, ai diretti protagonisti, ma e poi si dice parliamo di più alla gente, e poi queste interviste in cui D'Alema parla, Casini replica, De Vincenti risponde a D'Alema, ora ci sarà la risposta a De Vincenti che ha risposto a D'Alema. Io lo dico sempre: si chiamassero una bella telefonata chiarificatrice, oppure un bel congresso, un bel dibattito parlamentare, un bel dibattito nei partiti, e magari sui giornali pubblicare cose più vicine al macellaio, al tabaccaio, all'avvocato, all'imprenditore, al camionista, alla casalinga, al professore. No, e invece no. Va bene, scusate lo sfogo. Allora, Raggi invece, primo giorno da sindaco, e si muovono subito i PM. Sapete che il Fatto Quotidiano con Marco Lillo ha reso noto che aveva degli incarichi all'ASL di Civitavecchia, secondo il Fatto irregolari, almeno non irregolari gli incarichi, ma il fatto che lei non li abbia dichiarati. La Raggi ha sempre detto che è stato tutto regolare. Comunque si muovono i PM. È stato aperto un fascicolo, d'altronde c'è stata una denuncia da parte di un'associazione, la ANLEP, fa notare il Corriere della Sera, come è stato fatto notare dai giornali. Il primo è stato Franco Bechis su Libero, che il vicepresidente di questa ANLEP è un dirigente del PD in Lazio. Quindi, insomma, la denuncia è venuta da questa associazione e la procura ha aperto un fascicolo. Per la verità non ci sono indagati in questo momento, ma è un atto dovuto, infatti replica così Virginia Raggi, che viene un po' pedinata dai giornalisti che strappano qualche dichiarazione al suo primo giorno. È un atto dovuto, ma c'è un fascicolo, sono tranquilla, mi creda, così strappa Fabrizio Roncone a lei a pagina 9 del Corriere della Sera. È solo un atto dovuto, dice Virginia Raggi. Secondo Repubblica, tra le dichiarazioni del primo giorno di Virginia Raggi, neo sindaco di Roma, c'è anche le Olimpiadi. La mia posizione non cambia, non sono una priorità, più che Olimpiadi dello sport, sono Olimpiadi del mattone. I dati ci dicono che tutte le città ospitanti si sono straindebitate e direi che Roma, con un debito da 13 miliardi, oggi non si può permettere di assumere un ulteriore debito per fare altre cattedrali nel deserto che poi resteranno tali. Se si vuol parlare di sport, sono favorevolissima, ma iniziamo dagli impianti sportivi comunali. Così Virginia Raggi, secondo Repubblica. Invece nell'altro sindaco del Movimento 5 Stelle, Torino, Appendino, con l'altro sindaco rialzano la testa i Notav. Sentite qui Paolo Griseri, intervista su Repubblica, Alberto Perino, ve lo ricordate, leader contro la TAV, anzi il TAV, come lo chiamiamo noi, dice, visto che è un treno, il TAV. Fa differenza e come aver conquistato Torino. Appendino dice che però lei non può bloccare la TAV e Perino dice ha ragione, non è un sindaco che blocca il TAV, che noi chiamiamo così, ma per i poteri forti di Torino avere una sindaca contro il TAV è un problema, infatti sono molto preoccupati. Ora abbiamo messo un granello, non un granello ma una camionata di sabbia nell'ingranaggio delle grandi opere inutili e imposte. Così a Repubblica il leader dei No TAV parla. A destra invece c'è anche qui giorno 3 del nuovo sentiero dell'umiltà imboccato anche da Matteo Salvini, oltre che da Matteo Renzi. Due Matteo hanno imboccato il sentiero dell'umiltà. Secondo la stampa, Amedeo la mattina, anche Salvini, che sabato è atteso alla convention a Parma, punterà a meno propaganda, più programmi, meno felpe. Niente ruspe, insomma una strategia di comunicazione, quella aggressiva che ha pagato ma poi a un certo punto si è fermata, ha fatto certamente salire la Lega nei sondaggi ma poi non ha fatto più sfondare, evidentemente si è raggiunto quel limite con quell'atteggiamento aggressivo per cui non si conquistano più elettori, hanno perso anche a Varese, dunque la nuova Lega secondo la stampa sarà una Lega senza felpa e giù dalla ruspa perché Salvini ha caccia dei voti moderati. Rimane Berlusconi in questo panorama, Berlusconi, il centrodestra, Berlusconi che continua la sua riabilitazione dopo l'operazione al cuore e, secondo Libero, Salvatore Dama, a pagina 4, intanto ripiana i debiti di Forza Italia. 100 milioni di euro. Silvio mette 100 milioni per riprendersi Forza Italia. Con questa cifra salda i debiti degli azzurri con le banche e dunque l'unico creditore degli azzurri è lui e questa mossa è servita per permettere al partito di chiedere nuove prestiti alle banche al fine di fare fronte ai debiti coi fornitori. Questo scrive Libero a pagina 4. Va bene, dai, tra un attimo ci occuperemo di cose un po' più grandi della nostra Italia. Tutto ciò premesso, traffico! Scioglilingua inglese. Three witches watch three watches. Which witch watch which watch? Ciao Milan. Ciao. Le streghe e gli orologi, però ditelo voi. Però non male. Dovresti dirlo un po' più veloce, però, perché se no scioglilingua è ticket tac ti tac tacumi tac mi tac tac ticket tac ti tac tac ti tito tac. Se no, se lo dici tigre contro tigre. Lo sa dire anche Lorenzo Nespoli, anche alle 5 del mattino. Ma dillo velocemente e poi ne riparliamo, caro ascoltatore. Però grazie, apprezzo. Allora, la Brexit. Tra poco si vota in Gran Bretagna, tra poco, perché quando è che sono aperte le 1 alle 7? Ma lì sono le 6:47, quindi 10 minuti. Tra 10 minuti si vota. Allora, per quel che riguarda la Brexit, c'è da dire che ci sono tanti articoli, ovviamente, tanti vademecum, tanti come si vota, cosa succede, sono 46.500.000 gli elettori britannici chiamati oggi a votare, proprio Leave o Remain sul referendum sull'Unione Europea. I sondaggi ultimi, Remain sarebbe in lieve vantaggio, anche i bookmakers puntano a questo e in genere i bookmakers in Inghilterra ci pigliano, però stiamo a vedere. Certo, ieri nelle dichiarazioni più importanti, come racconta Beda Romano a pagina 2 del Sole 24 Ore, è stato il presidente della Commissione Juncker a mettere un paletto abbastanza netto su questo referendum. Ha detto Juncker: chi è fuori sta fuori. Insomma, nessun nuovo negoziato con Londra. D'altronde, racconta Beda Romano, a Bruxelles c'è il desiderio di dare una risposta unica, o meglio concordata. Nessuno si fa illusioni sul fatto che tutti i governi nazionali si esprimeranno. Vogliamo almeno evitare la cacofonia nella sostanza. Sabato a Berlino i sei ministri degli esteri di sei paesi fondatori si incontreranno. Martedì e mercoledì sarà il Consiglio europeo, le prime reazioni, ma insomma intanto è il giorno più lungo, come titolano tutti i giornali. Segnalo sul Foglio l'intervento del ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoan. Effetti specifici per l'Italia? No. Ma Padoan spiega con questa lettera i tre motivi per cui le conseguenze sarebbero gravi nel caso della vittoria del Brexit, cioè nel caso dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. In primo luogo, scrive Padoan, si genera un rischio politico di emulazione, perché forze politiche populiste potrebbero proporre iniziative analoghe in altri stati membri. Secondo, la convocazione del referendum ha generato un clima di incertezza con effetti soprattutto sui mercati finanziari, sui quali abbiamo già registrato volatilità. Infine, un indebolimento generalizzato delle aspettative sul futuro dell'Unione Europea rischia di frenare le decisioni degli operatori economici e provocare quindi un rallentamento dell'attività economica. È evidente che in caso di vittoria dell'opzione Leave, scrive Padoan, tutte queste conseguenze sarebbero amplificate e l'intera Unione dovrebbe attraversare un lungo periodo di incertezza. Poi dice però nessun effetto specifico per l'Italia. L'Italia non deve temere effetti specifici. Come sostengono numerosi studi indipendenti, gli effetti negativi sarebbero anzi prevalentemente concentrati oltre manica. Tuttavia la nostra economia subirebbe conseguenze analoghe a quelle diffuse in tutta l'Unione. E non dobbiamo nasconderci che l'incertezza tende a penalizzare i paesi che presentano fragilità strutturali. Nel nostro caso abbiamo già sofferto gli effetti della volatilità dei mercati sul comparto della finanza e del credito. Così Padoan. C'è anche per Repubblica l'appello del neo sindaco di Londra, Sadiq Khan. Il futuro della mia Londra non può che essere europeo. Vabbè, insomma, è il momento degli appelli, ma ora è il momento del voto e domani mattina si saprà. Torniamo alle cose italiane. La cronaca. La Cassazione ha riconosciuto definitivamente la stepchild adoption, ovvero il diritto del partner di adottare il figlio minore dell'altro anche in una coppia gay. Stepchild adoption che è stata tolta dalla legge cosiddetta Cirinnà per le polemiche politiche e che però, come sempre succede in Italia, rientra nei giudizi dei magistrati e quindi la legge non lo prevede. Le cause che arrivano in questo caso in Cassazione, il primo caso di due donne che hanno una figlia, invece le prevede sia la stepchild per le coppie gay. Bisogna leggere l'articolo di Donatella Stasio sul Sole 24 Ore, pagina 8, è molto chiaro su come questo rapporto di filiazione, ha precisato la Corte, non è riconducibile ad alcuna delle forme della cosiddetta surrogazione di maternità, cioè l'utero in affitto per dirla brutalmente, perché la bambina è stata riconosciuta dalla donna che l'ha partorita. Non serve lo stato di abbandono, basta valutare l'interesse del minore per riconoscere la stepchild adoption. Questo ha deciso la Cassazione in questa sentenza riguardo due donne italiane. Voglio saltare su Repubblica e leggere ciò che Elena Cattaneo, scienziata, senatrice a vita, pubblica in prima pagina. È una storia che mi aveva molto colpito, avevo letto in un trafiletto qualche giorno fa, la storia di un affetto di poliomielite che è morto qualche giorno fa, si chiamava Franco Fiorini e che come ultimo atto ha deciso di lasciare tutto in eredità a Elena Cattaneo, scienziata, per la ricerca scientifica. E oggi Elena Cattaneo scrive il dono segreto di Franco ai giovani scienziati. Lascio ogni mio bene, immobile e mobile, alla dottoressa Elena Cattaneo, senatrice a vita, affinché li destini, come meglio crede, alla ricerca scientifica. Provo a immaginare quest'uomo, circondato dai suoi libri, oltre 5.000 volumi di filosofia e scienza, mentre scrive queste parole, mentre lega in segreto le risorse della sua vita alle azioni di una scienziata. Un uomo schivo, Franco Fiorini, ma non per questo poco attento al mondo. Una persona, fino a qualche giorno fa, a me completamente sconosciuta. La storia di Franco mi è stata raccontata dal suo avvocato, una delle persone a lui vicine. Sono venuta a sapere che era affetto da poliomielite all'età di 9 anni, una malattia che gli aveva causato gravi problemi di deambulazione. Comincio a capire perché abbia scelto la ricerca scientifica come destinataria dei suoi beni, quella stessa che solo pochi anni dopo avrebbe reso disponibile un vaccino in grado di cambiare la sua stessa esistenza se somministrato in tempo utile. Probabilmente Franco è stato tra gli ultimi italiani ad essersi ammalato di poliomielite. E la sua scelta è un messaggio che incoraggia chi fa ricerca a continuare a lavorare affinché la scienza possa precedere libera da ogni condizionamento per raggiungere nuovi obiettivi di conoscenza che si traducano in una vita migliore per tutti. E per questo, ho deciso che il lascito di Franco sarà destinato a quello che mi piace definire il Laboratorio Italia. Mi riferisco ai tanti giovanissimi ricercatori pubblici italiani che fanno fatica a avviare progetti perché i fondi sono pochi, intermittenti, inaffidabili. Voglio che sia anche Franco a permettere loro di sviluppare nuove idee all'interno delle nostre valide università pubbliche. Sarà anche grazie alla sua volontà se permetterà al Paese di trattenere queste idee e trasformarle in nuove conoscenze al servizio di tutti. Insomma, è un bel messaggio, è un bell'articolo di Elena Cattaneo che racconta di questa improvvisa eredità da uno sconosciuto e come la destinerà agli scienziati. C'è un minuto per dire che c'è un giudice a Torino. Attenzione, mamme, papà, i vostri bambini a scuola, dice un giudice di Torino, su ricorso di genitori, potranno portare alla mensa il cibo preparato a casa. È una vicenda, guardate, molto controversa, molto sentita dalle persone. I giudici di Torino dicono che i genitori decidono se usufruire della mensa o portare da casa a scuola il pasto preparato per i loro figli. Anche lì non c'è una legge che lo impedisca, ma in genere le scuole dicono no, l'ASL dice di no, eccetera. A Torino un giudice dice si può fare. Che succederà? Boh, non chiedetemi oltre. Intanto siamo alla carta costa, un articolo intero di una pagina sui giornali per dire che siamo il popolo più vanitoso al mondo. Stefano Zecchi dice che dedichiamo 5,6 ore a settimana davanti allo specchio. Primi davanti argentini e americani, gli ultimi i cinesi, che non gliene frega niente di star davanti allo specchio, capito? Ma chi se ne frega!